Do il benvenuto a Francesco e Luca del Circolo Dev ai microfoni di Radio Città Fuggico. Ciao, ciao. Perfetto ragazzi, allora so che voi gestite il Circolo Dev, che è uno degli spazi che nonostante le restrizioni è rimasto disponibile per mandare avanti la cultura attraverso diversi incontri di arte e musica. Parlateci meglio di com'è nata l'idea e del Circolo Dev. Allora, proprio dall'inizio, diventa un'intervista lunga se partiamo dall'inizio. Ah, vedete voi, libera scelta. Facciamo un po' un sunto, dai, partiamo dalla fine allora. Noi sì, siamo rimasti aperti in questo periodo, nonostante sia stato abbastanza complesso, cercando di reinventarci un pochino come di volta in volta facciamo ormai da quando abbiamo aperto, il che si mette un po' in difficoltà, ma ci piace sperimentare, mettiamola così. E abbiamo cercato di continuare a proporre comunque le nostre attività nel limite del possibile tra le varie restrizioni, perché ci pareva importante rimanere che il posto rimanesse aperto, continuasse a essere frequentato in questi momenti di gigantesco vuoto culturale, musicale, eccetera, eccetera. Crediamo che sia molto bello che almeno qualcosina delle piccole possibilità, qualcosa rimanga aperto, si continua ad essere qualche eventino, seppur piccolo. E è quello che poi abbiamo iniziato, lo spirito con cui abbiamo iniziato dall'inizio, insomma, proporre in una strada abbastanza desolata e vuota, piena di serrande chiuse e basta, immondizia, qualcosa che fosse più carino e più bello, insomma. Sì, posto abbastanza bene. Sì, ma assolutamente sì, nel senso dopo la pandemia, cioè dopo quegli anni di buio, è stato necessario questa vostra svolta decisiva. E sempre rimanendo un po' in tema di restrizioni e pandemia, vi chiedo voi come vi siete adattati con le continue restrizioni. Ma ci stiamo rinnovando man mano che capiamo che cosa si può fare e che cosa no. È sempre molto difficile, devo dirci. Abbiamo sempre tanto improvvisato, ci siamo sempre riscontrati con AIX e con altri circoli per capire meglio. Adesso in questo momento stiamo facendo, visto che siamo in zona gialla, tutti seduti al 50%, non si può fare il bar durante i concerti, è molto complicato, però stiamo cercando di farlo comunque. Sì, cioè nel senso tanto di cappello, ma tornando un po' anche alla storia, no? Voi siete due ragazzi giovani che hanno deciso di intraprendere questa avventura, come vi sentite? Nel senso, qual è la responsabilità che vi portate addosso in questo mondo dove la cultura viene quasi sempre meno? Beh, eravamo giovani, dai, ormai non più tanto io così giovinetti, però dai, ancora un po', ancora un po', ancora nello spirito, nello spirito. Sì, sì, come no, tutti. Dai, e comunque, per tornare a quello che chiedevi tu, che me lo sono un po' dimenticato, però per provare a ripensarti. Ah, ok, beh, secondo me noi ci divertiamo abbastanza a fare quello che facciamo, e lo facciamo perché ci piace, e piace principalmente a noi, e speriamo che piaccia anche a qualcun altro, e che qualcun altro si diverta e si senta bene come noi all'interno del nostro circolino. Però sì, non abbiamo forse aspirazioni di definire la cultura, di fare, non lo so, di essere qualcosa di assolutamente gigantesco, quanto più di fare delle belle cose che ci piacciono, che fanno stare bene noi e gli altri. Quindi sì, boh, è un po' così, è nato in amicizia questo circolino e continua, potrei dire, in amicizia. Perfetto, cioè è un po' il succo del vostro lavoro, ecco. Ora vi chiedo invece, cioè, giusto per tornare al succo, cosa prevede la vostra programmazione delle prossime settimane? Cosa avete in serbo per i clienti e il pubblico che ci ascolta? Allora, guarda, ovviamente dato il periodo, la nostra programmazione futura procede molto lentamente, nel senso che abbiamo tante cose che sono lì, che stanno per uscire, ma attendono il momento giusto per farlo. Quindi diamo delle anticipazioni sul breve periodo, magari, che sono cose già sicure, che già sappiamo che si faranno sicuramente. E ad esempio a me piacerebbe molto invitarvi alla performance di Sixa, che sono un duo di origine polacca, che sarà per la prima volta in Italia mercoledì 23 febbraio qui da noi, e propongono una performance molto interessante, un duo che lavora su questioni di genere, violenza, misoginia, tutte queste cose qui, nato nelle periferie polacche con un approccio molto punk, mischiato a del noise, a una cosa un po' teatrale, e è molto molto interessante per quanto sia una performance molto pesa, e quindi ti inviterei volentieri. Fra, forse vi può dire qualcosa di più sulle parti più metal, che sarò lui. Ma diciamo, a breve ci saranno gli Escape con Willy Finch, diciamo, ma poi usciranno tante tante serate, insomma, proprio sul adesso proprio ci saranno sì, Escape il 25 febbraio, poi dopo ci saranno i Nightland con il Black Therapy il 4 marzo, diciamo le cose che sono già uscite che vi possiamo dire. Poi ci saranno Doom Racer, con Born, diciamo, tante cose, diciamo, del metal, a noi piace, cioè, ci piace fare tante cose metal, ma anche a core punk, usciranno man mano, dai. Perfetto, ma voi avete dei filtri nel proporre progetti come il duo polacco, oppure accettate qualsiasi proposta, o voi siete i primi a cercare qualsiasi cosa che, insomma, che voi ritenete interessante? Beh, ci arrivano svariate proposte che ascoltiamo, appunto, come è un po' il discorso di prima, le cose che ci piacciono siamo molto felici di farle, quelle che non ci piacciono cerchiamo di evitare di farle, e alcune cose le cerchiamo noi e altre ci vengono proposte. Fortunatamente non abbiamo carenza di proposte in questo periodo, c'è molta gente che vuole suonare, che vuole esporsi, che vuole provare a fare cose, quindi cerchiamo di valutare sempre tutto quanto con attenzione. Di solito abbiamo una programmazione sempre molto fitta, dal martedì alla domenica, però tutti i concerti di febbraio per la maggior parte sono stati annullati per vari motivi, però ritornerà di nuovo una programmazione fitta dal martedì alla domenica sempre, e speriamo più presto possibile. E fortuna che c'è tanta voglia di mettersi in gioco. Io, ragazzi, vi ringrazio e invito gli ascoltatori a venirvi a trovare e a partecipare a queste serate fantastiche. Grazie ancora. Grazie mille a te. Grazie. Grazie, buona serata. Buona serata, ciao.